Sei quasi un perdente, schiacciato da un lavoro, basta che non sia compromettente. Senza più motivazioni né voglia di fare, non sei nessuno se non sei professionale. Qui sei solo un numero, un qualunque animale guinzaglio. Vieni pagato bene, sei contento. Sei contento. Ma in fondo poi che serve lamentarsi? In fondo è solo la dinamica del mondo. Non tanto per le truffe e le ingiustizie che mi viene rabbia, sono gli occhi rassegnati delle metropolitane che fanno male. Magari sognano di andare sul giornale, ma stanno male, stanno male. Come se fosse veramente naturale. Non c'è problema, chiamatemi ignorante, che fare il dotto per me non è importante. State tranquilli, guardate, non è niente, se il mondo sfrutta i desideri della gente. Se qui colpevoli non è che siano tanti, soltanto 3,5 miliardi di abitanti. E mentre vi scannate per un po' di pane, vi commuovete dei bambini che hanno fame. State tranquilli, non è successo niente. Lasciate stare, non è mica rilevante. Se il mondo sfrutta il desiderio della gente, se dopo tutto basta stare al proprio posto, avere un bagno col bidet. Oh, ma guarda te, però che bello avere il bagno col bidet. Stare a casa ad aspettare lo stipendio.